and your keys. Your engine is on. Please fasten your seatbelt. Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Anche per questa sera, 10 ottobre 2018, inizia prove tecniche di trasmissione da adesso sino alle 22.30 circa. Spazio esistente dal ormai lontano 1992. Siamo entrati nel 26° anno di esistenza. Spazio di musica cosiddetta industrial, ambient, noise e experimental in genere. Salutiamo Alessandra qui da Roma, il buon Like Awake, Raffaele Pezzella in quel di Napoli, Maya della Sardegna. Il palinsesto prevede, come al solito, intorno appunto alle 22.30, 25 o'clock. www.ondorossa.info, il sito della radio, dove domani comparirà la playlist e il podcast, cosa che accadrà anche nella relativa pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder. Continuiamo il viaggio nell'universo Lisa Gerrard, il suo album ultimo dal nome Iret, concepito insieme a David Kuckerman, un album pieno di umori etnici, con percussioni, fiati, strumentazione particolare. E quindi da questo Iret, questa sera ci ascoltiamo Orenda, Time Passes e Armira. Thank you. Ancora Lisa Gerard, sulla quale salutiamo Nicola Locci della Sardegna, Sandra qui da Roma. Benvenuto anche a Fulvio Biondo di Solar Lodge, ricordiamo anche questo, un storico progetto, diciamo, industrial degli anni 80-90. Allora, noi abbiamo continuato a fare la conoscenza di questo Iraet, questo ultimo lavoro di Lisa Gerard insieme a David Kuckerman. Due tracce strumentali da una grande ispirazione etnica, e invece questa Armira, dove ritorna la splendida voce di Lisa Gerard, è un pezzo asciutto ma solenne nello stesso tempo. Iraet, uno dei tanti lavori di Lisa Gerard nella sua carriera parallela a Deccan Dance, che ricordo stanno anche ritornando con una nuova uscita a novembre e un relativo tour che toccherà molte città d'Europa. In Italia ci sarà Milano in maggio. Risaluto Alessandra e noi anche per questa sera andiamo invece in Grecia, lo facciamo con Black Harbor, questo nuovo astro di casa Antezen, etichetta invece teutonica. Esordisce con Madares, un lavoro anch'esso arricchito da da suoni decisamente esotici, chiamiamoli così, e provenienti da mondi lontani, che secondo me ti sta a pennello dopo questo album di Lisa Gerrard. E per concludere la nostra conoscenza con Black Harbor, questa sera ci ascoltiamo Sacrificium e Beastial's Mourning. la fascinosa tribalità di Black Harbor, artista greco. Madares, l'esordio che esce per Anzen, e speriamo che prove tecniche sia taumaturgica per i malanni di Nicola Locci, che salutiamo di nuovo. Ventuno e 33 in questo momento. Lasciamo Black Harbor, lasciamo la Grecia e ci spostiamo nell'Europa dell'Est, esattamente in Polonia, per un'ulteriore conferma della vivacità della scena polacca per quanto riguarda il suono industrial, martial, neofolk. La Polonia da sempre ci ha dato e ci ha donato dei talenti molto molto interessanti, tra cui per esempio questo Job Karma. Job Karma, 20 anni di attività, e questa sera ci ascoltiamo il suo quarto lavoro del 2005, che usciva per un'etichetta italiana, la Ars Benevola Mater, non credo più esistente, andrò a vedere. Un album che si chiama Strike, che si apre con questo Empires and Collapse. Atmosfere un po' sospese tra il martial alla In the Nursery, con parecchi inserti elettronici. Eccolo qua dunque, Job Karma con questo Strike. e devo fare una sorta di pubblica ammenda per aver scoperto in gravissimo ritardo il talento di Job Karma, questo progetto polacco fondato da Maciek Fret con Aurelius Pisarewski e Arek Beginski. Questa è l'attuale formazione di Job Karma, provenienti da Wroclaw e anche organizzatori dell'omonimo festival che si tiene ogni anno in novembre in quella bellissima città dove sono stato lo scorso anno. Questo era Strike, un album che si apriva con questa Empire's Collapse, anch'essa arricchita, impreziosita da ricami etnici al pari di Lisa Gerrard e Black Harbor. E intanto andiamo a salutare anche il Pierluigi, che è un po' di tempo che non sentivamo e che, se non ricordo male, ci sta ascoltando da un paesino della Danimarca. Strike, Job Karma, un gruppo purtroppo di difficile reperibilità. Ci sforzeremo per reperire altro materiale e ce n'è parecchio, devo dire. Mentre adesso andiamo da un artista al femminile, lingua ignota, anch'essa una recente scoperta. Lei ha soltanto invece due album al suo attivo e qui ne abbiamo il secondo, All Bitches Die. Una interessantissima artista a metà tra Pharmacon, Pussy Mary e Anna von Walswolf, artista che abbiamo già apprezzato proprio qui a Prove Tecniche di trasmissione. Tratti noise ma anche gotico operistici, e questa sera tre estratti brevi, ossia God Gave Me No Name, For I Am The Light e Holy Is The Name. God gave me no name, no thing can hide from my flame. God gave me no name, no shame as great as my this world is none but evil, and all of us are full of evil one way or another. And whatever we do, we have evil in us, all of us do. Thank you. thought to myself, I gotta fight you. Salutiamo ancora Massive Threat di Job Karma e anche un altro pezzo di storia della musica contemporanea, il buon Gianluca Becuzzi, conosciuto come Limbo, Noise 3 Company e tanta attività solista. Ancora lingua ignota, eccola qua, Holy is the name, da questo Old Bitches Day. Old Bitches Die. Come for me when I grabbed my bag and whipped my pistol out toward him. And he was coming toward me with his right arm, I believe. And I shot immediately. And I think I shot twice as fast as I could. Oh.